tutto ok, i tuoi ascoltatori sentono la tua mancanza? E lui ci risponde, ci ha risposto così. Buongiorno, ti ho detto che tu mi devi parlare così forte. Ti ho detto che tu mi devi chiamare con l'amore. Ti ho detto che tutto quanto possa stare insieme a me. Da Marco Roma, buongiorno a tutti voi. Bene, cioè, scatta bene, l'applauso bene, a Marco bene, Roma, bene, grazie, grazie. Ma è fantastico. Finalmente Marco Roma si è accorto che Cox Spaziale suona i suoi messaggi. Forse dopo anni, però almeno sei mesi sono che noi facciamo sentire i tuoi messaggi, Marco Roma. Speriamo che vada tutto bene, perché era dal 30 maggio che non ci mandavi una canzoncina. Per piacere, non sparire più così. Sì, Marco. No, infatti, non ci fa preoccupare, insomma. Bene, allora, bene. Mia, tocca a te, perché io devo finire di fare il post, che se no poi non ci ascolta più nessuno. Allora, devo dire che non vedevo l'ora di conoscerti, Annalisa, perché Stefano ha fatto un'introduzione così bella mentre venivamo qua. Mi ha detto che fai tantissime cose e ho voglia di sentire dalla tua stessa voce. Da dove vuoi partire? Dal perché vieni da Ravenna, oppure dai progetti che ti stanno occupando cuore e mente in questi ultimi mesi? Insomma, a te la parola libera, poi io. O dal fatto che grazie. Non hai la batteria dell'iPhone. Esatto. Beh, intanto grazie. Allora, sì, vengo da Ravenna perché facevo lezione all'Accademia di Belle Arti, una lezione finivoli. Però ecco, parlare è difficile, sai, raccontarsi. Comunque la cosa bella è capitata ieri, che abbiamo riaperto a tutti gli effetti Novella Guerra. Cos'è Novella Guerra? Novella Guerra è un posto dove abito, però che è stata creata proprio in memoria di mia mamma, che si chiamava Novella Guerra. Certo. Un nome, un programma, perché rispetto alla tra resistenza e resilienza mi piace sempre la resistenza, certo. Devo dire. E quindi è un posto di resistenza. Cosa vuol dire? Un posto dove crei delle utopie e cerchi di portarle avanti sapendo che non le raggiungerai mai. Certo. Però ieri è stato bello, perché in questo momento c'è un progetto a Novella Guerra, che quindi è un posto residenze dove vengono degli artisti, stanno dei periodi lì, oppure anche semplicemente si pensa, ci si trova, ci si fanno delle mangiate. E in questo momento il nuovo Forno del Pane, che è un progetto che fa il Mambo, di cui abbiamo parlato ampiamente in questo. Esatto, ci ha fatto l'onore di appunto designare Novella Guerra come uno degli spazi dove portare uno degli artisti in residenza. E quindi Davide Sgambaro ieri ha fatto a Novella Guerra semplicemente una giornata in cui abbiamo mangiato, parlato. Ma che e bello. Ci siamo intrattenute dalle 11 alle 12 di sera. Ma la cosa bella è che sono venuti dalle 11 di mattina. Dalle 11 di mattina, certo. Poi uno dice un'oretta, dice, esatto. No, aspetta ragazzi, c'era tanto da dire. Però tra gli amici che sono, ci ha raggiunto Stefano ovviamente, anche altri artisti, hanno partecipato con grande entusiasmo molti degli studenti della Fondazione Internazionale Incontri col Maestro di Imola, che è un posto okay. molto bello, in cui lavoro anche, e hanno fatto un sacco di performance musicali. Che bello. Per cui abbiamo dedicato un concerto al Mini Pony, uno alla gallina, hanno fatto un concerto sull'albero. Dov'è questo posto? Novella Guerra a Imola. In questo prato, quindi è stato molto bello riaprirlo in questo modo. Bellissimo. Dopo la pandemia, dopo l'alluvione, noi a Imola siamo stati molto fortunati, però percepisci questo orrore che c'è attorno, sì. No? E quindi c'era bisogno di un po' di leggerezza, sì. Di un'isola. Esatto, e l'abbiamo generatrice. Sentita. Sì. Ma fantastico. E questo concerto sull'albero, prima ho sentito che Stefano diceva: Michele, metti la come hai fatto sull'albero. Allora forse il concerto sull'albero è stato realizzato da Michele Fontana, sì, che era, è il secondo ospite di stasera. Ciao, piacere a tutti. Sì, il concerto sull'albero, su un fico. Fico, che è un albero molto. Molto fico. Molto fico. Infatti è stato bellissimo. Molto semplice da arrampicarsi, insomma, poi era pieno di ciospi, di cose, insomma, molto di appigli. Sì, non è molto tirato. È molto tirato, no. C'era qualche frutto, insomma, è soprattutto un'acustica impressionante, di una bellezza, perché poi lì hai ai chilometri, no? di niente, che senza nessun rimbalzo, e quindi proprio suonare nel vuoto, nel completo su, vuoto. Su coxospaziale.blogspot.it metteremo delle immagini della giornata di ieri, vero Stefano? Perché tu le hai fatte qualche foto? Certo, non potevo non farle. Ma sul fico siamo saliti io e Giovanna Virgil, che questa sassofonista con cui siamo entrambi studenti dell'Accademia di Imola, facciamo entrambi parte di questo collettivo che si chiama VKO, Camerata degli Ammutinati, dove si fa insomma un po' di sperimentalismo, un po' di musica contemporanea, un po' perché di queste cose. VKO si chiama? VKO è un aneddoto miracoloso, perché siamo dei miracolati fondamentalmente. Ma adesso non so quanto tempo ho, cerco di dirlo in mezzo mentre minuto. Mentre passa l'aereo, velocissimissimo. Ma in realtà l'idea del collettivo era nata né da me né da Giovanna Virgil, era nata Marta Cappetta. E io saluterei Giovanna, ciao, Giovanna, che ci stai ascoltando. Un'altra studentessa sempre dell'Accademia, eppure, insomma, fondatrice, ideatrice di questo collettivo. E è nata l'idea al Balanzone, che è questo bar di Bologna dove ci si entra dentro e si sente e non si esce mai più. E non si esce più. 333 180 94 94, se volete mandare i saluti musicali a Michele e a tutti VKO potete farlo e noi ve li suoneremo su WhatsApp. Bellissimo. E insomma era lì che diceva: ma insomma, tu parli tanto di musica contemporanea e non fai mai niente, bisognerà fare qualcosa, un ensemble, un collettivo. Ora, gli ensemble, io sono un musicista con una formazione classica dal conservatorio, di fondazioni di ensemble ne ho visti centinaia, ogni volta durano 20 secondi, poi si dice si farà, anche lì ho detto ciao Marta, vabbè, lo fondiamo così noi due, non si farà mai niente, lo sai già. Invece lei stragasata, dice no, dobbiamo fondare un'associazione. Dio mio, associazione, io ero lì che studiavo le scale, le note lunghe, mo devo me... allora qua è nato l'amore, cerchi di capire o con Marta, con Giovanna o col Balanzone, cioè la scintilla dell'amore che fa portare avanti i progetti. Vedi, infatti. E allora ci si mette a chiamare un po' le varie associazioni in cui avevamo già lavorato, no? Perché spesso si lavora con enti, concertisti, associazioni. E allora io ho chiamato Stefano Gottin, che è questo assurdo presidente di un'associazione pesarese che si chiama Wunderkammer Orchestra. Ho detto: ascolta, con cui avevo lavorato, ho detto: Stefano, ascolta, ma noi qua ci è venuta questa idea strana, io non sto capendo bene, non sto capendo niente, tu che sei presidente di una roba, dammi due dritte. E lui fa: scusa, ma ti do la mia associazione. Capito? Ha detto: ma io ho un'idea, ma anziché mettervi a fare robe, ma diventate una divisione, già ho la divisione danza, la divisione, voi cosa fate? Noi volevamo fare musica contemporanea, cosa un po' sperimentale. Ma dai, fate la divisione musica contemporanea, divisione progetti sperimentali, voi dite sì, è di Bologna, ma fate una roba bolognese, insomma, fate un polo. E allora l'associazione Wunderkammer Orchestra, allora da lì noi siamo diventati VKO, Wunderkammer Orchestra, Camerata degli Ammutinati. Fantastico. E questo è il miracolo, insomma, che senza il quale probabilmente non sarebbe. E questo è successo nel 2000 e? Sai che anche questo è dibattuto. Io sostengo che fosse 2022, Marta sostiene che fosse 2021. Comunque era inverno, faceva un freddo incredibile. Era dopo Covid, dici, il nuovo sì. Era proprio in apertura Covid, segno di rinascita, è nata questa, è nato il collettivo, poi ci siamo ampliati, adesso siamo oltre una ventina, con dentro anche compositori, artisti, librettisti, performer, di ogni. E niente, si vede un po' cosa. Fanno dei concerti su dei fichi. Esatto, è diventato un po' il nostro parco giochi, capito? Quando ci viene un'idea, niente, si cerca di metterla su. Invece Annalisa, raccontaci di questa residenza del nuovo Forno del Pane, in che cosa consiste? Cioè che cosa fa Davide nello spazio Novella Guerra? Si ispira ad Alponi. No, scherzo, no. È un progetto secondo me molto bello, che è molto anche nelle righe di Novella Guerra, che vuole essere uno spazio di libertà, ma anche uno spazio che crei dei tempi medi. Cosa vuol dire dei tempi medi? Che non siano né lo spazio dell'inaugurazione formale, ma neanche proprio la cena così. E quando abbiamo fatto Novella Guerra era proprio questa l'idea di portare la memoria di Oreste, e quindi questa memoria di artisti che si trovavano prima di tutto per vedere il lavoro, per condividere qualcosa e poi dopo per sapere chi erano, no? E di lì è nata una modalità, è stato un po' un imprinting alla Conrad Lorenz, per cui ho voluto proprio ricreare una cosa simile. E secondo me il MOFO, un imprinting che fra l'altro anche le istituzioni si sono messe a copiare. Non so se hai saputo che alla Quadriennale di Roma c'è stato questo meeting di 3 giorni chiamato Quorum. No. Rubato dal Forum, ma chiamato Quorum. Vada, organizzato da Gian Maria Tosatti. Ma sai, dopo diventano poi esercizi di stile quando sono fatti così, eh? Uh-huh. E infatti non a caso noi ieri eravamo proprio molto contenti di essere luddisticamente in campagna a farlo fino a sera, non sapevamo neanche perché. Cioè, ecco, la cosa bella per me è stata, per il Nuovo Foro del Pane, mi è piaciuto molto la progettualità. Cioè, hanno fatto è la prima esperienza che vengo, perché prima sì. Era stato un nuovo forno del pane dentro il museo, adesso appunto nei luoghi, nel territorio, che non è sempre facile fare nel territorio, perché comunque l'area metropolitana che va fuori comunque si deve confrontare con delle realtà più piccole, diverse, che hanno delle identità particolari. Ma nel caso di Davide io vedo che è stato molto attivo, ma attivo in che termini? Attivo vuol dire anche godersi il silenzio della campagna e essere attivi, mi sembra un po' quell'attività alla Thomas Mann, no? Della Montagna Incantata, che riscopriva un po' di silenzi. Nello stesso tempo poi ha avuto diversi impegni, però è stato fatto all'insegna proprio della ricerca e della formazione, cioè una residenza che non è mirata, faccio una residenza poi faccio l'opera finale, faccio una residenza perché voglio abitare il territorio, cioè sentirlo, andare a vedere dei luoghi inaspettati. Quanto è importante molto, questo, no? Molto. Cioè siamo sempre proiettati, cioè dirò una cosa magari banale, però so che nel profondo tocca delle corde estremamente fondanti dell'essere umano e anche della ricerca artistica. Tutta questa proiezione nel fare, produrre, andare, vedere, no? E la campagna o la natura è l'unica forza motrice e propulsiva che ti obbliga invece a dire: sai cosa? Sì, ma tu sei di parte però. Sì, io amo la campagna, non ho i social. No, ma è stato molto amo bello. La campagna. Ma dopo da un'azienda agricola. È bellissimo. No, io ho più una situazione wild, diciamo così, non proprio azienda agricola, siamo lontani. È una campagna un po' punk la nostra, però la cosa bella, siccome lavoro da tanti anni, insomma, sull'arte pubblica partecipata e relazionale, mi sono molto rapportata anche con il territorio di Imola, per cui questo progetto, quando un po' si vinto un luogo, da Bolzano e Cremona lo faccio da anni anche a Imola, conosco il territorio. E con Davide abbiamo fatto anche un po' di esplorazioni, però anche quelle sono state fatte all'insegna dello scoprire ciò a cui nessuno aveva pensato, per cui è riuscito da lì siamo riusciti a fare un po' di flaneria, un po' di scoperte, per cui abbiamo fatto un giorno di formazione, per dire, che non era mirato a un pubblico, era proprio la formazione per quelli che facevano parte di questo progetto, quindi semplicemente siamo andati a vedere questo teatro sotterraneo fatto durante il periodo appunto del ventennio fascista, che non poteva essere, che non è stato però completato, ma sono centinaia di metri, che è proprio sotto Imola, il centro di Imola, quindi sembra, cioè, voglio tipo andare a Imola a vedere, una cosa incredibile. È riuscito a farlo aprire. Poi ho messo un jingle per interrompervi. Perché? Sì. No, perché siccome sono le 20:22 e io sapevo che Michela aveva un pezzo da 8 minuti prima, da suonare prima della pubblicità. Bisogna farlo partire adesso. Che cosa ci suoni? Questo si chiama To React di Jacopo Bonora, prima assoluta. Jacopo Bonora è uno dei WKA. Sì, uno degli amici della camerata. Oramai è una fluidità meravigliosa. È un compositore. Questo nome camerata un po' inquietante. Esatto. Ma poi ti dico spiegherò sempre anche quello. Ma infatti. Sono equivoci. No, vabbè, sono equivoci che per la nostra generazione. Infatti, io gli avevo consigliato Confraternita, però dopo fa molto Ivy League. In effetti. Allora, io ho spento la. No, puoi lasciare. Sì, ho chiuso la finestra almeno per i Ryanair quando passano, perché sta cosa qua, insomma, ho tolto la musica di sottofondo, che era questa molto bella, Ok. E adesso dai, faccio due note e poi ti spiego anche la camerata, va là, che sennò qua penso male. Ah sì. Eh sì, no, anche perché stiamo andando da quelle parti. Tu mettiti comodo, io magari rimetto sulla la musica di sotto. No, ma ci sono, eh? Ci sei? Sì. Dai. Ok. No, sai perché? Perché questo bianco in radio non funziona tanto. Vai. Vuoi che mi metta? No, no, vai benissimo. No, no, no, bianco nel senso di silenzio. Thank you. Cesare Pietro Iusti e questo è Coxo Spaziale. C'è la Belle Époque. Coxo Spaziale. Guarda, io sono alta, quindi almeno me la bassa. Una volta l'avevo bassissima. E adesso tutti sappiamo che hai la pressione alta. Siamo tornati a Coxo Spaziale, ringraziamo di nuovo Michele Fontana che ci ha fatto questo regalo, ma raccontaci di sto pezzo, che cos'è, di chi è, perché, come si chiama? Ma questo pezzo è un pezzo che ci è arrivato da questo Jacopo Bonora, io non lo conoscevo, ma ha scritto lui, è un compositore, ma una bella penna, poi questo si chiama To React in particolare, reagire, l'aveva scritto in quarantena o durante questo periodo, insomma, in cui cercava di autoimporsi una reazione a questo lassismo di massa, insomma. E allora c'è questa bipartizione del pezzo, questa parte iniziale che è estremamente meditativa, invece la seconda che invece è quella reazionaria, quella reattiva, anzi più reattiva che reazionaria, molto reattiva. E lui fa parte del collettivo? Ma adesso c'è ancora... del Kappa Weight, è tra gli amici, sì, che sì, non è Q-Weight. È tra gli amici, tra le persone che gravitano intorno. Adesso in concerto non siamo ancora riusciti a eseguirgli niente. Però secondo me è una bella penna, poi mi faceva piacere presentarlo. Una bella penna sì, da scrivere, cioè una bella poetica, un bel modo. Poi non è mai facile scrivere. Che a me affascina tantissimo la composizione contemporanea, perché non ci capisco niente naturalmente. Cioè, tanto quanto a te affascina il contemporaneo, cioè l'arte, certo, contemporanea, l'arte visiva contemporanea. Niente. Però siamo affascinati da queste realtà molto, molto specifiche, che però di cui non sappiamo niente. Cioè io faccio molta fatica a studiare, no? Ma l'importante è incontrarsi, secondo me. Anche perché secondo me, alla fine non è che ognuno può diventare specialista di tutto, però effettivamente mi capitava di pensare che a volte gli artisti visivi per un video o per qualcosa mettono una musica un po' così neutra, pensando di aver fatto, insomma, qualcosa che certo ci sta, no? Invece nel momento che c'è l'incontro con loro, sì, che sono i musicisti contemporanei, veramente cominci ad annusare un po' l'opera d'arte totale, l'annusi, cioè anche la certo. Mm-hmm. Però ognuno ha la sua specificità, no? Allora è bello anche metterle insieme, combinarle, senza cercare uno di fare quello che fa l'altro, ma e semplicemente anche fruirla, metterle insieme e fruirla. Fruirla sentendola anche senza, senza capirci niente, sì, no? Cioè, è possibile fare anche questo. Ma per quello sono Ryan fantastici anche loro come studenti e giovani artisti, così come capita poi anche all'Accademia di Bologna, che hai l'occasione di parlare con persone sul processo e quindi dopo danno un sacco, no? Certo, certo, però certo. La musica sì è. Tu Annalisa, come artista, ti sei invasata così tanto sul processo che non produci più niente praticamente. No, non è vero. Cioè, sto producendo in tutta Europa. Ho reinaugurato. Stai producendo più processi in tutta Europa. No, non è vero, perché abbiamo reinaugurato un sacco, no, di, dico, monumenti. No, dico l'oggetto. Ah, è vero, no, questo è vero. No, perché effetti. Poi nel momento che reinauguriamo. Però l'oggetto artistico di Annalisa Cattani non Beh, non viene più fuori, però nei monumenti c'è. Beh, possiamo dire che anche anche un pensiero può diventare una produzione generata da un'opera, no? Ma io sinceramente di grandi oggetti non ne ho mai fatto, ho fatto delle azioni con degli oggetti. Mm-hmm. Racconta quello prodotto, che stai generando e tutto. Cioè, nel senso che questo progetto, quando un posto diventa un luogo, è secondo me la produzione di un valore immateriale che non si capisce molto cos'è un valore immateriale. A me, no? Piace come idea anche questa sulla ragionare sul processo prodotto, soprattutto in un mercato così come quello dell'arte, no? No, la cosa bella di quando un posto diventa un luogo, vabbè, la genesi è quando un posto indifferente diventa familiare, lo possiamo chiamare luogo. E con questo abbiamo appesantito e alleggerito dei luoghi, cioè cosa vuol dire? La gran parte dei luoghi in cui abitiamo, dei posti in cui viviamo, sono indifferenti per tutti, e le cose che sono diventate più leggere di tutte sono i monumenti, che fisicamente sono i più pesanti di tutti, quindi sono degli oggettoni che certo, ormai non dicono più niente. E quindi sono partita di lì a riadottare dei posti che tornassero ad essere luoghi. Quindi siamo partiti da Bolzano, dove abbiamo riadottato in piazza Walter il monumento di Walter, ma per ridargli, di Walter von der Vogelweide, per ridargli un senso di quello che era l'amore da cui derivava, e quindi certo, era diventato un qualcosa di scomodo e è tornato ad essere la leggerezza che aveva. Ma a Imola, dopo siamo andati a Cremona, e per assurdo perfino la casa di Stradivari nessuno aveva più voglia di aprirla, con la somma frustrazione dei proprietari. Allora anche lì abbiamo ridato voce alle finestre di Stradivari. Come succede questa operazione, diciamo, di appesantimento, cioè di calibrazione del peso o di una significazione di un luogo? Forse che viene anche un po' da Marco Gé, no? C'è un po' di antropologia. Sì, assolutamente. Di ispirazione. L'ispirazione viene di lì, però viene anche dall'azione. Viene anche dal fatto di ridare, dare al processo un valore, ma dare anche all'arte quella che è il suo spaccato, cioè cosa deve fare l'arte se non l'anestesia, il contrario dell'anestesia. Certo. Cioè l'arte non è grande estetica più, è estesia. Certo. Quindi quello che puoi fare è risvegliare il software delle persone. Certo. E per fare questo devi andare a ridargli qualcosa. Certo. E quindi anche ridargli la propria città. Ridargli la città. Stavi già diventando troppo profonda, per cui ti ho dovuto interrompere. Sì, ma sempre mi interrompi. Con l'angolo della menzione. A me piace. Sì. Però ti continuerò a registrare offline e lo metterò a pillole nelle prossime puntate, piano piano piano. E questo sarà un prodotto audio. Mercoledì, che è dopodomani, dalle 20:30 abbiamo Spray Porn, Magic Mandrake Karaoke. Spray Porn è un programma parallelo dei Ping Pong / Andrea Renzini e Stefano Passini. Una rivisitazione in forma di karaoke di un brano della star band di nome Magic Mandrake, un format disco che attraverso il coinvolgimento di diverse cantanti che variano a rotazione interpretano il brano con diverse interpretazioni, cioè una ripetizione. Questo è a Frida nel Parco mercoledì 14 giugno dalle 20:30 a Frida nel Parco, nel Parco della Montagnola a Bologna. Vado io con... Vadi tu con Riparazioni. Con il giovedì 15 giugno dalle 16 alle 20, Riparazioni, riprogrammato per giovedì 15 giugno in Piazza Raviola, a pochi passi dall'ingresso principale dell'Accademia, il laboratorio di fashion design Ritessere ad Arte, durante il quale studentesse e studenti interverranno con ago e filo sugli indumenti portati direttamente dal pubblico. I colori e l'intreccio di fili e tessuti stabiliranno un legame con il quartiere e i suoi abitanti che, al termine del laboratorio, potranno portare con sé gli abiti riparati. Il workshop sarà raccontato in diretta radiofonica dalla trasmissione 50 minuti di Riparazioni sulle frequenze di Radio Città Fujiko, che siamo noi, e direttamente dal sito www.ababbo.it. L'attività è a cura della professoressa Elisabetta Zanelli, detta Betty, e realizzata insieme ai bienni di fashion design e di didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico. Abbiamo detto che questo è il 15 giugno dalle 16 alle 20 all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54. Sempre giovedì invece alle 18 abbiamo Valentina Crasto con I miei fiori, il filo e il bozzolo di Valentina Crasto. Il lavoro e la ricerca di Valentina Crasto si colloca nell'ambito dell'arte tessile. I fili di cotone vengono gettati nei loro colori e nelle loro trame caotiche, fissandosi alla base al supporto grazie alla colla, quasi in una tecnica di dripping, ma che qui si accumula in grovigli, nodi che si spessiscono per accrescimento o stratificazione, o al contrario si assottigliano in linee fragili, incerte e sottili. Questa è a Galleria B4, giovedì 15 giugno dalle 18, in via Vinazzetti 4B, nella zona universitaria a Bologna. E sempre giovedì, dalle ore 18 alle ore 21, in occasione dell'iniziativa Open Tour 2023 e in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, la Galleria Studio La Linea Verticale presenta la bipersonale Virtati là nel Fo, arricchita dai testi critici delle docenti Lucrezia Ercoli e Mauro Pozzati. Il fuoco è identificato nella mostra come simbolo del lavoro da parte dell'energia. In greco, infatti, energeia significa al lavoro, in opera, in azione, ed è letto ad elemento di congiunzione tra i due giovani artisti in mostra, Giuseppe Francalanza e Jacopo Risaliti. Questa energia intrinsecamente laboriosa è ciò che permette a noi e a tutto quello che vediamo di non essere un accumulo informe, ma materia disciplinata, scolpita, secondo la forma dei nostri corpi, attraverso l'informazione. Tutto ciò accade allo studio della linea verticale in via dell'Oro 4B, Bologna. Venerdì 16 giugno invece, dalle ore 18, nel complesso del baraccano Sala Possati, abbiamo La casa nel piatto, sapori e ricordi degli homeless che diventano arte, seconda edizione. Questa è a cura di Giovanna Caimmi e di Valerio Deò, con la collaborazione di Paola Binante. La casa nel piatto nasce dall'incontro tra 8 studentesse e studenti del biennio di arti visive e un gruppo di persone senza fissa dimora, a cui è stata chiesta una confidenza intima sul tema del cibo: un suono, un profumo, una sensazione tattile, una visione o un sapore, piaceri sinestetici strettamente connessi all'identificazione del sé più profondo. I giovani artisti si sono dedicati ad un ascolto empatico, attingendo e rafforzando le proprie risorse emotive e immaginative, e hanno creato opere d'arte, interpretando e dando forma, tra buio e luce, alle memorie dei senza tetto. Questo è venerdì 16 giugno alle ore 18 al complesso del Baraccano in Sala Possati. E infine sabato 17 giugno alle ore 21.30, con replica alle ore 22.30, sempre per all'interno del progetto Riparazioni, a Piazza Raviola e Piazza Puntoni, saranno scenario della sfilata Crossing Streets, in cui studentesse e studenti del biennio di Fashion Design proporranno al pubblico un'indagine sulle sfumature del rapporto tra moda e potere, secondo la dicotomia ordine-disordine. Abiti sartoriali e tagli netti si contrapporranno ad abiti trasgressivi e innovatori. Il titolo della sfilata è liberamente ispirato alla performance Legarsi alla montagna di Maria Lai, a cui partecipò l'intera comunità di Dulassai, avvolgendo il paese con un lungo nastro, simbolo di unione e rinascita. Questo nel 1981. E si svolge all'Accademia di Belle Arti di Bologna, in via Belle Arti 54, Bologna. In realtà si svolge in Piazza Puntoni, che è proprio, cioè, anzi, Piazzetta Raviola, che è parte di Piazza Puntoni, che comunque è fuori dall'Accademia. Praticamente quasi tutto quello che succede nel panorama dell'arte contemporanea di Bologna in questa settimana ha a che fare con l'Accademia, insomma. E poi la settimana dopo inaugurerà Open Tour, per cui tu hai avuto, visto che sei anche docente dell'Accademia, aspettate un attimo che qua è arrivato un Piper. Dicevo, tu che sei anche docente dell'Accademia di Belle Arti, hai avuto a che fare con Open Tour? No, non particolarmente quest'anno, però okay. No. Hai sempre a che fare nella misura. A che fare con Open allora, Tour. Non ho fatto delle traduzioni in passato, e però avere a che fare con Open Tour vuol dire fare parte dell'Accademia, cioè nel senso che puoi fare il progetto nei laboratori. Io faccio inglese per l'arte all'Accademia di Bologna, e quindi incentivo a partecipare sicuramente a tutti questi momenti in cui l'Accademia diventa un corpo. Cioè, la cosa importante è quando le istituzioni vanno al di là di quelli che sono i curricula e diventano qualcosa di vivo, e mi sembra che la spinta ci sia in questi termini, e soprattutto quando gli studenti poi vengono coinvolti dentro quei famosi processi di prima, no? Siamo entrati nei gangli anche di Radio Città Fujiko con l'Accademia, per cui molto bene. E direi che è ora di ascoltare la canzone che Mia mi voleva far sentire, che è questa Clio A J'ai perdu le Nord. Senti qua. Je voulais tout laisser à Paris, je trouvais que rien valait le coup. Je voulais partout à Paris, si je trouvais que rien n'avait de goût. J'ai coupé court à tout, je voulais jouer les voyous. Rien dans les pas, je claquais la porte, je voulais jouer les casse-cou. Et je suis partie de partout, je me suis perdue tout le temps. Arrivée je sais pas où, je sais pas pourquoi ni comment. Pourquoi, comment. Adieu l'ennui, je m'évade, je la nuit, les étoiles. Je ris aux éclats, je vole aux étals. Tu me traques, je t'étale. Et je suis partie de partout, je me suis perdue tout le temps. Arrivée, je sais pas où, je sais pas pourquoi ni comment. Mes confidences me tient tête ou me console. Et puis je danse. Y'a pas un chat dans mes vacances. Y'a plus que moi qui danse. Qui lève un bras, recommence. Y'a plus que moi qui danse. Dicevo, aspetta che altro, intanto che Clio sta finì le perquise. Attends, no? attends, cette chanson-là, je l'ai dit à Camilla et Gabriel, c'est pour vous. Ah, Camilla et Gabriel, c'est pour vous. Oui, ça va, nous en retourné. No, questo l'avevo già fatto. A Coxo Spaziale avec Annalisa Catani. Mais oui, on peut se balader en français si tu veux. Et, tu veux continuer avec ça? Et Michel Fontaine. Fontaine. No, io il francese non lo so, ahimè, è un peccato, perché è una delle mi piace, lingue più belle al anche mondo. Secondo me, infatti, soprattutto quando ci sono tipo delle ragazze tipo Clio che te lo sussurrano nell'orecchio. Questo male gaze di Stefano. Sì, no, infatti il mio male gazing non accenna a diminuire, del resto. No, proprio, cioè, un anno che sono qua, esatto. Che provo, dovrò niente, fare di più. Niente da fare. Dovrò fare di più. Sai com'è? È che la mia generazione è quella, cioè abbiamo no vabbè, alcuni stanno morendo anche se non è proprio la mia generazione, però piano piano moriremo tutti. Stavo spunzecchiando Annalisa perché è stata a Kassel a fare quando un posto diventa un luogo. No, è stato bello Kassel. Questa cosa qui del progetto, che è partito da un progetto più locale, poi è diventato nazionale, poi è diventato europeo, e questo è stato interessante perché è stato declinato con questi paesi che sono stati il Portogallo. Allora siamo partiti da Kassel, mm-hmm. Dopo Kassel siamo andati in Portogallo, dal Portogallo siamo andati in Svezia, poi saranno coinvolti la Croazia e l'Irlanda e la Lettonia. E molto bello perché portare questa idea quando un posto diventa un luogo e passare al concetto di posto e luogo in tutta Europa è interessante. Adesso io fingo di essere uno che è in tangenziale e per sbaglio ha messo su Radio Città Fujiko, ma che cosa succede quando un posto diventa un luogo? È bellissimo quando vai all'estero, perché l'abbiamo strutturato un po' come il Forno del Pane, cioè il progetto è di 2 anni, dura, abbiamo vinto questo progetto europeo, dove si poteva anche fare immediatamente un lavoro. Invece in realtà facciamo una preparazione di 2 anni dove ci incontriamo, andiamo in questi paesi, ci si forma insieme, quindi ci fanno vedere i loro posti, i loro luoghi, ci confrontiamo rispetto al concetto di arte pubblica e partecipata, perché non è qualcosa di così consolidato, infatti. E soprattutto sul concetto di posto e luogo, perché per esempio per noi un posto ha delle caratteristiche particolari. In Finlandia il posto per eccellenza è il bosco, quindi noi dividiamo ancora tra land art e public art. Per loro il posto da riabitare e da rendere agibile soprattutto è ad esempio tutto quello che è natura, quindi loro stanno cercando di togliere le barriere architettoniche nel bosco. Pensa a noi che magari non le abbiamo nelle stazioni dei treni, e quindi c'è tutto un concetto diverso di memoria. Però una volta che c'è il confronto, dopo hai trovato. Noi, se continuiamo così, stiamo andando molto bene nel portare il bosco dentro la stazione dei treni. Visto come soprattutto lì in Romagna, visto come sono andate le cose. E poi è stato bello perché è stato scelto appunto per una grossa conferenze, mostra a Barcellona, dove di nuovo ci si confronterà, perché in Europa poi si percepisce, anche in Italia già si fa, però bisogna di andare un po' più a fondo rispetto a quello che è il concetto anche del dentro e del fuori, oggi più che mai. Certo. Oggi più che mai. Molto interessante questa cosa. Quindi 2 anni di formazione per arrivare. Sì, noi l'abbiamo strutturato così. Allora siamo partiti con quando un posto diventa un luogo, all'insieme di riabitare i valori europei, quindi anche una sorta di richiamo ai valori tramite la riabilitazione o la reinaugurazione di monumenti e luoghi che inaspettati. Quindi ognuno dei paesi, a partire da Kassel, per dire, ha cominciato a pensare Kassel, che diventa il cuore dell'Europa artistica durante la Documenta. Certo. È molto interessante perché ovviamente lì la città di Kassel partecipa al progetto europeo quando un posto diventa un luogo. Quest'anno mi è capitato nel passato di fare proprio una partecipazione Romagna-Kassel con Fabio Cavallucci, fantastico, che era un progetto collaterale della Documenta di Catherine David, e fu molto interessante perché lei aveva inaugurato questa mostra di 100 giorni e ti sentivi parte anche della Documenta. Facendo parte del progetto Quando un posto diventa un luogo, che arrivava durante la Documenta con la città della Documenta, ci ha permesso di parlare con gli artisti di Kassel. Certo. E gli artisti di Kassel, per assurdo, si sentono un po' discriminati dalla Documenta. Quindi la Documenta da un lato chiama il collettivo, giustamente, e diventa sempre più indonesiano, però magari l'artista di Kassel non è abbastanza esotico per essere dentro, cioè deve andare a Giacarta per essere esotico, capito? Che è un po' il problema anche degli artisti italiani, noi non siamo esotici per niente, nel momento in cui magari facciamo una residenza alle Hawaii, in quel caso lì forse un po' esotici lo siamo anche però noi. Però è stato molto bello dopo vedere appunto come tutte le varie associazioni a cittadinanza di Kassel, cioè, ovviamente siamo andati a partecipare dentro la Documenta, a vedere tutto, abbiamo visto da dentro le problematiche dell'amministrazione, è interessante vedere le problematiche di Documenta dentro l'amministrazione di Kassel, e il fatto che loro ci hanno proposto un sacco di cose, non su Kassel proprio per il progetto, ma nei territori vicini, rischiando anche molto, perché ci hanno proposto ad esempio un luogo dove da trasformare in posto, un posto dove c'è stato un omicidio a causa di un episodio di Nazi skin, caspita, o cose di questo genere, quindi è stato molto interessante. Oppure un altro posto da trasformare in luogo proprio all'insieme dei diritti, per dare voce a un luogo dove c'è stato un altro omicidio a causa appunto di intolleranza. Adesso ti faccio un'altra domanda cattiva. È stato molto interessante. Ma cioè, se uno volesse vedere un po' di documentazione di quello che fate, dove bisogna andare? Allora su YouTube, quando un posto diventa un luogo, ci sono tipo 10 ore di film. Ah, ok. Quindi quando un posto ti passa la voglia di vivere, oltre con che tutti, con tutti gli happening fatti, perché sono stati coinvolti di anno in anno, 800 studenti tutti gli anni. E per nelle collaborazioni con le città, Cremona, Bolzano, lì associazioni varie, era più trasversale. È finito il tempo. Andate su YouTube. Michele Fontana, volevi aggiungere qualcosa a tutto, quello che abbiamo quanto raccontato? Quanto mezzo minuto? Hai mezzo minuto. Ti spiego la camerata? Spiegaci la camerata. Camerata nel 600, le camerate guidavano l'avanguardia musicale, no? L'opera lirica nasce dalla camerata dei bardi, c'era la camerata degli ignoti, noi volevamo fare sperimentalismo, poi facciamo musica da camera, allora abbiamo detto fondiamo una camerata. Ho capito. È un po' come la svastica, che era il simbolo del sole che sorge, e adesso non si può più usare. Vabbè, camerata ve lo lasciamo. Dai, tra qualche anno, se faremo una versione giovanile della camerata, la chiameremo la cameretta. Ringraziamo tantissimo Annalisa Cattani, artista, curator e chi più ne ha più ne metta. Cioè, e donna. E amica, e anche super. Cioè, voglio dire, sei una delle poche intellettuali simpatiche che conosco. Dopo te. Io non sono un intellettuale e naturalmente ringraziamo tantissimo però Michele Fontana della camerata WKO, come si chiama, che mi devi promettere una cosa, che vieni con la violoncellista, la sassofonista, e un po', no, ti porto tutti e 20. No, in 20 ci sta. Adesso che hai visto quanto è grande lo studio, quanto è caldo lo studio di d'estate, verso fine agosto secondo me possiamo organizzarci per fare una puntata solo con voi, bellissimo, in cui fate quel cazzo che vi pare, bellissimo, cioè, della serie tipo ci sono solo questi 3 minuti di interruzione dalle 20:30, però se volete io non parlo neanche, cioè, metto la sigla di Coxo Spaziale, voi fate quello che vi pare e poi la sigla. Esatto. mettiamo quei 2 minuti di pubblicità e poi dopo la sigla finale, basta. Volentieri. Va bene? Mia, me lo approvi? Top. Fantastico. Potremmo dire una cosa per Michele, essere... il 21 giugno ci sarà un concerto degli studenti della Fondazione Internazionale Accademia Incontri col Maestro al Mambo. Ah, cavoli. E allora è molto assolutamente importante. Lo diremo all'angolo della menzione della settimana prossima. Esatto. Grande. Importante che sono tutti compositori, studenti che hanno fatto pezzi e poi dopo rielaborati da Marco Di Vari, che è il professore di composizione. Dobbiamo tagliare. E anche Zuccarini. Sì. Abbiamo finito il tempo e dunque vi saluto con ciao a tutti. Le solite parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Mia Daschia su PA, questa era Coxo Spaziale, vi lasciamo con Panta 80 e naturalmente noi ci risentiamo lunedì prossimo. They say it's you that washes the will and brings the night into the day. If you won't notice, how can I show you all of your worry? We've all gone away. Don't leave me lonely, don't leave me unhappy. Just bring me up into your faith. If you don't need me, then don't you see me letting my freedom turn into Don't say love.